quando avevo più tempo io passavo a trovare i miei morti qui al cimitero di Bosco Chiesa Nuova. Adesso ci mando tante benedizioni anche a loro di giorno e di notte, ma è difficile che possa fermarmi. Ma io li rivedevo tutti leggendo i nomi. Questo ti ricordi che è morto stringendomi la mano? Ti ricordi quell'altro che mi mandava un bacio? Ti ricordi quell'altro? Oh, che gioia, che lezione per me, giovane prete. Assistere persone che muoiono come davvero fossero all'inizio di una festa. Gli altri intorno al letto piangere e queste persone morire contente, senza rimpianto, felici. È il vertice più alto, l'esperienza più alta del cristiano. E il compimento di quella beatitudine uscita dalle sue labbra, beati gli afflitti perché saranno consolati. Ecco, i santi hanno sborsato questo alto prezzo, qualunque prezzo, pur di avere la gioia di Dio nel cuore. E anche qui mi sovviene un ricordo. Ero di passaggio, proprio lì sul marciapiede di una casa. Dice il marito, il papà, «Ehi, moglie, adesso tocca a te andare a confessarti che domani è Pasqua. E ho tante cose da fare. Guarda, che io questa sera non vengo a letto con te se non vai a confessarti. Ma perché? Perché io sono troppo pieno di gioia e vorrei condividerla con te. Vorrei che anche tu fossi contento come sono contento io». Naturalmente parlava anche forte perché si era accorto che ero prete e quindi ci teneva anche forse che io gli dessi ragione. «Sì, signora, provi anche lei. Vedrà quanta gioia proverà. Provi, provi. Non c'è nulla al mondo che possa paragonarsi alla gioia della coscienza». La coscienza che è la specchiatura viva di Dio. Quando quella è tersa, è pulita, è luminosa, è nella festa, noi abbiamo già una anticipazione di paradiso nella nostra esperienza creaturale. «Vai, vai a confessarti», dice alla moglie, «che io mi sono confessato e sono felice. Anche tu». Così dovrebbe essere la vita del cristiano. E la sua propaganda o evangelizzazione, questa dovrebbe essere. Quello lì si vede che è un cristiano. Guarda, guarda che persona equilibrata, che persona di ugual animo. Guarda che non lo si vede mai imbronciato, mai arrabbiato. Guarda che padrone che è dei suoi nervi, padrone dei suoi sentimenti. Guarda che uomo che si toglie il pan di bocca per farti un piacere. Questo è cristianesimo. E questo che voleva vedere Gandhi per poi chiedere il battesimo alla Chiesa cattolica. Ma lui, che pure amava tanto il Vangelo, si aspettava che i cristiani gli dessero questa testimonianza di pace e di gioia prima di ricevere il battesimo. E questa è la maniera di diffondere la nostra fede tra i compagni di lavoro, di impiego, di professione, tra i familiari, i vicini di casa, fra quelli che abitano nello stesso condominio, sulla stessa strada, nello stesso quartiere. E questa è la maniera. Ed è da augurarsi che primi fra tutti siano i sacerdoti, quelli che testimoniano col volto sereno la realtà della nostra destinazione alla gioia eterna. Veri angeli della risurrezione, i sacerdoti. Che pena quando io incontro un sacerdote che ha il broncio. Ma tu come mi puoi predicare la risurrezione? Come tu mi puoi annunziare la Pasqua? Tu con quel volto così, se non sei contento tu, sacerdote, chi dovrai essere contento? Tu che hai nelle mani i sacramenti che portano la gioia a questi figli di Adamo e di Eva, peccatori.